Il gatto e i due passeri, da Favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Al signor Duca di Borgogna. Fin dalla prima infanzia un gatto e un passerino all'ombra degli stessi dèi penati vivea, l'uno nella gabbia e in un canestro l'altro a lui vicino. Le mie due care bestie facevan spesse baruffe col becco, l'una e l'altra con la morbida zampa. Non eran zuffe tremende, no, che il tenero gattino non armava d'artigli lo zampino. Spesso con colpo secco il passero col becco dai ferri gli rispose, ma il gatto compativalo. Tra vecchi amici è sempre buono ed utile non inasprir le cose. Eran cresciuti insieme in lunga consuetudine e più che in lotte estreme finian le lotte in giochi ed in facezie. Un giorno arriva un tratto un passero a trovare il passerino e ruppe l'armonia che il giusto gatto aveva col suo vicino. Ma, spiego, tra i due passeri seguia ben presto una discordia e Mangiatopi disse, in fede mia ad insultar costui vien l'amicizia. Non voglio che un estraneo venga a strozzare il mio vecchio vicino. No, pei gatti immortali e frammischiato si fece del tristo uccello un bocconcino. Ma intanto che rosicchia il forestiero uccello, per Bacco, dice ancor un fegatello, scommetto che non è di questi passeri più molle ed eccellente. E questa riflessione naturalmente indusse il gatto scaltro a rosicchiare in pace anche quell'altro. Qual morale si può da questo fatto tirar, lettori miei? Senza morale la favola è un boccone senza sale. Non è difficile spremerne l'estratto, ma non vorrei sbagliare. A voi lascio, signor, l'indovinare, son giochi adatti al vostro genio. È stanca la musa e quello spirito le manca che brilla in voi, signore. Con lei sono stanche tutte le altre suore. Fine della favola, il gatto e i due passeri. Questa registrazione è di dominio pubblico.